suitcase of hope. A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country. Benvenuti alla seconda puntata di Suitcase of Hope, il format di Radio Città Fujiko che vuole raccontarvi l'immigrazione in un modo diverso, in un modo non emergenziale come fanno le testate mainstream o la politica europea, perché non ci sono i numeri per considerarla un'emergenza, ma noi al di là dei numeri vogliamo andare alle storie delle persone che scappano da guerra e miseria e così sottolineare quello che dovrebbe essere un nostro impegno civile, quello di accogliere le persone appunto che fuggono, oltre che anche un'opportunità insomma anche economica, visto che viviamo in un paese dove c'è una crisi demografica e la popolazione invecchia. In questa puntata non possiamo non ricordare quello che è successo lunedì scorso, ovvero il terzo anniversario della strage di Lampedusa, del naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo delle coste siciliane, dove hanno perso la vita 366 persone, appunto un naufragio che aveva creato molta commozione, perlomeno così anche di facciata per quanto riguarda le istituzioni europee. Dico questo perché poi le politiche nei confronti dell'immigrazione, in particolare degli sbarchi, non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Pensate che dall'inizio del 2016 sono morti nel Mediterraneo più di 3.000 persone e sono decine di migliaia quelle che hanno trovato la morte nel nostro mare negli ultimi 10 anni. Perché le politiche non sono cambiate? Perché non si sono aperti dei canali umanitari per fare arrivare in modo sicuro le persone. Certo, rimangono le missioni come quella Mare Nostrum o iniziative private come quelle di Medici Senza Frontiere e di altre realtà che vi racconteremo nella seconda parte di questa puntata, perché sono importanti per garantire la sopravvivenza di queste persone. Ma vi do solo un dato che fa capire come l'Europa continua a fronteggiare il tema dell'immigrazione, di persone che scappano da guerra e miseria. In meno di 12 mesi sul suolo dell'Unione Europea sono sorti 12 muri, di cui forse quello dell'Ungheria, che ha votato come sappiamo il referendum di domenica, che è fallito, quello, il muro dell'Ungheria, è forse solo il primo, perché ne sono spuntati altri 10, e questo dà un po' il polso della situazione. Tra l'altro, come dire, l'Ungheria viene spesso usata per le sue scelte xenofobe, razziste e nazionaliste, ma in realtà è tutta la politica europea ad essere impostata in modo sbagliato nel confronti appunto dei rifugiati, dell'immigrazione. E in particolare sottolineava Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, in un'intervista che abbiamo pubblicato anche sul sito radiocittafugico.it, come oltre all'accordo con la Turchia per la deportazione e il contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, proprio l'Unione Europea sta cercando di portare a casa accordi, alcuni dei quali li ha già fatti, come ad esempio in Sud Sudan, con 16 paesi fra l'Africa e il Medio Oriente, e con l'utilizzo di fondi per gli aiuti umanitari, però con la richiesta di bloccare anche i flussi migratori. E questo insomma la dice lunga sulla situazione che viviamo nel nostro continente, che continua a non avere una soluzione, provocando la morte di decine di migliaia di persone. Questo appunto dovrebbe dire qualcosa alla nostra coscienza, farla urlare, e purtroppo spesso non è così. Cominciamo quindi con un tributo a Lampedusa e a tutti, in realtà estendiamo il discorso a tutti i migranti che hanno trovato la morte nel Mar Mediterraneo alla ricerca di una vita nuova e alla ricerca della fuga da situazioni pericolose, con una canzone che è stata scritta dai Sud Sound System insieme a Luciano, dedicata proprio a Lampedusa. This is Luciano in association with Sud Sound System and the Salenta family, paying honors to the brave pioneers who set sail in treacherous waters seeking for brighter shores. Shamo moi! Row, row, to Lampedusa we go. Go, go, for a better life we row. Yeah. Oh, Dolce Musa, put porta mi a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Yeah. Oh, Dolce Musa, porta mi a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Io son tu qui, che sfida gli leoni. Un deserto è la siccità. Io son tu qui, che parla con le tigri. A mezzo una savana sotto un babab. Io son tu fai omega, cascise della valle. Nel paradiso e la terra popolao. Io son tu creatore di danze e solitudini. E su una zattera non sa già dove sta pao. The waters are turbulent, raging hard with the desperate. Brave souls seeking for betterment, putting their own lives in detriment, leaving loved ones behind, hoping that they would find even a slice of paradise, making the ultimate sacrifice. La speranza della gente gancia ludi sa giornata. A sopra una barca la deriva e ne mandata. Perché fonte del guadagno per ci dice che l'aiuta. Ma è sullo sfruttamento per ci rischia la vita. E non giorno migliore. Forte in mure mare. A sopra una barca c'è lo scuro a mezzo mare. E non giorno migliore. Forte in mure mare. La strada ancora lunga a Lampedusa e mugliare. Row, row, to Lampedusa we go. In assenza di canali umanitari sicuri, le persone continuano a morire nel Mediterraneo. Questo è successo lo stesso 3 ottobre, anniversario di Lampedusa, quindi 2 giorni fa. È successo anche ieri. E magari non ci sono naufragi che coinvolgono tantissime centinaia di persone e ne provocano la morte, però con poche unità alla volta il conto, il bilancio è sempre comunque tragico. Per evitare i naufragi, per cercare di portare le persone in modo sicuro sul nostro territorio, da qualche tempo sono iniziate anche delle missioni private, diciamo così, o comunque di associazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere o anche altre. All'interno di queste missioni c'è stato spazio anche per un progetto che si intitola Looking for Odisseo, e ovviamente si parla di Ulisse, navigatore per antonomasia, ma appunto al di là del nome noi ci siamo fatti raccontare da una delle ideatrici di questo progetto, Mariana De Carlo, in cosa consiste. Il progetto è stato scritto da 4 persone, me che sono un'antropologa, un videomaker e fotografo che è Luca Capponi, un'altra fotografa che è Martina Verona e uno studente in infermieristica con una laurea in storia che è Damiano Panzeri. Noi abbiamo presentato questo progetto al bando Fuori Rotta, che è il bando sovvenzionato dall'Internazionale, Radio Caterpillar e altri sponsor, Montura, che ha lo scopo appunto di finanziare viaggi alternativi fuori rotta per l'appunto. E nostro effettivamente ha avuto una menzione speciale proprio perché risultava essere un viaggio del genere. Quindi diciamo che abbiamo avuto la possibilità di accedere ad un crowdfunding che ci ha dato la possibilità quindi di raccogliere soldi utili per partire con il nostro progetto, che è un progetto di ricerca nel Mediterraneo a bordo di un'imbarcazione di un'associazione umanitaria che è SOS Mediterranee, che è una, costituita da una consorellanza di nazioni, nel senso che c'è una sede in Francia, una sede in Germania, una sede in Italia, che avendo la collaborazione di Medici Senza Frontiere ha potuto noleggiare un'imbarcazione, l'Aquarius, e anche quindi un'agenzia nautica per poter fare nel Mediterraneo i salvataggi nelle acque internazionali delle imbarcazioni a rischio di naufragio. Il loro progetto inizia nel febbraio del 2016 e si nutre di fondi solamente privati, quindi appunto di donazioni, non c'è scopo politico né appunto fondi dell'Unione Europea. Si tratta solamente dei privati che hanno sovvenzionato questa missione. E appunto è ancora in attività e si pensa che si riuscirà anche a tenerla in vita l'anno prossimo. Siamo appunto riusciti a salire a bordo, in particolare due di noi, me e Luca Capponi, e per una settimana nel periodo di luglio, quindi in un periodo molto caldo, infatti mentre eravamo a bordo abbiamo assistito a ben due salvataggi, e il nostro scopo era quello di riuscire ad osservare come funzionava proprio questo progetto, quindi come lavorava, ma anche avere la possibilità di focalizzarci su quelle che sono le dinamiche anche oltre, diciamo, il mero soccorso, quindi appunto le dinamiche dei lavoratori a bordo, chi ci lavora, se ci sono dei volontari, come funziona la quotidianità a bordo e come poi avviene il contatto con i migranti, quindi che tipo di protocolli vengono applicati, ma proprio banalmente come funziona il contatto con loro. La produzione finale, diciamo, nel nostro progetto, oltre a piccole pubblicazioni che stiamo in questo periodo facendo e che sono soprattutto verso web magazine come The Summary, che hanno, diciamo, come pubblico un pubblico giovane informato su questi temi, lanceremo poi nel mese di dicembre un web doc, quindi un sito internet multimediale con all'interno tutta la raccolta della nostra produzione, a partire dalla scrittura, ai video, alla fotografia. Quindi insomma, a bordo dell'Aquarius avete avuto modo anche di conoscere i migranti che venivano salvati? Sì, abbiamo deciso come politica di progetto di non forzare mai le testimonianze, né del personale coinvolto né del personale soccorso. Non abbiamo fatto delle interviste mirate ai migranti per ottenere le loro testimonianze. Abbiamo preferito interagire molto con loro, a partire proprio dalla quotidianità, quindi la distribuzione dei pasti piuttosto che la sistemazione per appunto le esigenze contingenti, quali appunto il bagno, le docce, il cambio d'abito e così via. Inoltre appunto abbiamo avuto anche un altro momento importante di condivisione che ci ha permesso di entrare molto in confidenza con i migranti, che è stato proprio voler utilizzare dei materiali che avevamo portato da casa, quali palloncini, carte, penna, colori, delle attività banalmente con loro, perché le ore, soprattutto serali, a bordo delle imbarcazioni sono molto lunghe. Comunque dalle acque internazionali fino al rientro nei porti d'Italia abbiamo navigato per 2 giorni e mezzo, quindi molto spesso in questi momenti morti erano proprio, queste persone erano molto stanche banalmente nella navigazione e senza attività da fare. Quindi attraverso questi strumenti abbiamo praticamente creato dei laboratori di arte e terapia, per cui senza forzare i meccanismi ma semplicemente diffondendo il materiale è uscito fuori che la carta è stato uno scopo, ha avuto anche scopo terapeutico. Molti hanno iniziato banalmente a disegnare la loro vita, il loro viaggio, a voler raccontare attraverso le immagini. Altri semplicemente hanno creato dei giochi da tavola e si sono così potuti passare delle ore più in serenità. Altri poi hanno fatto dei disegni per ognuno a bordo dell'imbarcazione, perché ognuno a bordo dell'imbarcazione era per loro chiaramente un salvatore. E quindi attraverso questi momenti di condivisione i migranti hanno iniziato a proprio avere desiderio di parlare con noi, in qualche modo fidandosi anche di più, proprio perché non eravamo lì a registrare, filmare o voler diffondere obbligatoriamente dati sensibili. Abbiamo semplicemente raccolto quello che volevano testimoniare e tutti comunque hanno questa esigenza importante proprio da come a volerla denunciare, quello che che è la situazione attuale in Libia, che chiaramente non è mai stata tranquilla anche nel periodo di Gheddafi, ma appunto dalla caduta di Gheddafi in poi si registra sempre di più una situazione di incertezza e di violazione dei diritti umani altissima, e quindi tutti hanno proprio questa voglia di parlare immediatamente di questo. Chiaramente chi è stato magari più colpito dal periodo del soggiorno in Libia magari appunto ha delle difficoltà comunicative. Ci sono molti migranti che presentavano delle reali malattie psicosomatiche, proprio perché magari hanno avuto più esperienze di diversa prigionia, di diversi tipi di violenze. Però in generale la maggior parte ha voluto proprio parlare di questo, urlarcene, insomma. Un signore etiope ci ha voluto raccontare tutta la sua peripezia dall'Etiopia, tutto il sistema di mafie che ti porta in Sudan a perdere documenti, a dover ripagare, e poi ad arrivare in Libia e ad entrare ed uscire dalle prigioni sostanzialmente. Certo. Un altro ragazzo gambiano ci ha raccontato di come ha visto morire il suo amico con cui stava viaggiando, perché banalmente sono persone dalla pelle più scura rispetto ai libici, e nonostante avessero lasciato questi militari che li avevano fermato i loro beni, comunque hanno aperto il fuoco e solo lui si è salvato. Un altro ragazzino minorenne, insomma, lui in particolare mi ha voluto mostrare questo foglio di carta che era il suo testamento, perché lui dalla Somalia era riuscito ad arrivare nel deserto del Sahara, ma lì i nomadi gli davano delle indicazioni sbagliate, per cui lui si è perso tantissime volte ed è rimasto praticamente 2 mesi nel deserto cercando di trovare la giusta rotta, e vedendo che intorno a lui trovava solamente cadaveri e non avendo abbastanza provvigioni d'acqua e di cibo, credeva di morire. E quindi scrisse questo piccolo testamento in un inglese un po' stentato, però proprio con la volontà di dire: se qualcuno mi trova, almeno lo può leggere, perché in inglese può magari darcene alla mia famiglia. E in quel momento a bordo mi stava chiedendo poi invece altra carta e una penna per poter scrivere delle nuove parole, no? Perché non era morto ed era vivo e voleva subito cambiare, diciamo, questa sua scrittura, fermarla con delle parole di vita. Quindi sicuramente tutte le testimonianze raccolte non sono state forzate, ma sono state comunque tutte forti e molto di denuncia, sì. Diamo qualche contatto per restare, appunto, per comunicare con voi e restare aggiornati. Sì, noi appunto abbiamo per il momento aperto i canali di Facebook, di Instagram e di Twitter, e in tutti questi canali ci si trova con appunto il nome del nostro progetto, che è Looking for Odisseo. Abbiamo anche un'email di progetto, che è appunto lookingforodisseo@gmail.com. Attraverso i nostri canali noi lanceremo sicuramente la comunicazione dell'apertura di questo web doc, che sarà gratuito e fruibile da tutti, con una sezione speciale riservata ai nostri donors, a coloro che ci hanno sovvenzionato e che quindi hanno poi sovvenzionato in realtà il progetto SOS Mediterranee e MSF congiunto, perché appunto i soldi raccolti col crowdfunding sono stati poi donati a questa realtà, quindi a questa imbarcazione. Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Itaca, Itaca, Itaca, la mia casa ce l'ho solo là. Itaca, Itaca, Itaca, e da casa io voglio tornare. capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. E sulle ultime note di questo brano di Lucio Dalla, Itaca, che è anche abbastanza attuale, anche se si parla di una storia mitologica di molti secoli fa, termina la seconda puntata di Suitcase of Hope. Io vi ricordo che potete riascoltarla in podcast sul sito radiocittafujiko.it e ritorniamo mercoledì prossimo sempre alle 18. Un buon proseguimento all'ascolto di Radio Città Fujiko.